ma quel cretino di Parenzo, ma cosa mette? No, è vero, ma denunciateli a sta gente qua. Tutti e due compari, sono due cretini. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Vado a fare benzina e mentre pago dico al benzinaio: ah, come va? Bene, bene, dai. E tu? Beh, si aspetta la zanzara. Eh sì, alle 6:30. Per me Cruciani è un mito. E io sorrido in silenzio, non dico niente, perché io faccio parte della maggioranza silenziosa. Forza Parenzo! La maggioranza cresce, silenziosa. Cresce, cresce. Io ho sempre saputo che ci siete. Che siete in tanti, mi scrivete, mi chiamate, mi fermate per strada, mi abbracciate, vi volete fotografare. Siete tanti e siete la parte migliore del paese: notai, architetti, avvocati, ma anche camionisti, operai, metalmeccanici, parrucchiere. Siete la maggioranza. Voi non vi lavate i denti nel cesso di casa. Voi non fate la pipì nel lavandino. Voi non mettete i calzini per 7 giorni. Voi non mettete le stesse paia di mutande per una settimana dicendo che è normale. Voi non fate le gang bang e sperate di tornare a casa e trovare la vostra fidanzata a letto con il vostro migliore amico. No! Voi ritenete tutto questo una cosa non normale. E infatti siete normali. Siete la maggioranza silenziosa. Vota Parenzo, vota Parenzo, vota Parenzo, vota Parenzo, vota Parenzo. Allora, tu sai che il quotidiano Libero, il quotidiano Libero, quotidiano ha Libero, fatto, sì, ha fatto sì, un sondaggio, uno dei soliti, sì, favolosi sondaggi, fammelo dire. Gli immigrati, li volete vedere? A, morti. B, non li volete vedere proprio. C, li volete vedere a casa di Renzi. Ma dice, cazzo, ma tutto qua, cioè sono A, B o C. Questi sono i grandi sondaggi del quotidiano Libero. Dai, ragazzi, su. Dai. No. Siamo seri, su. Dai. Sondaggio sull'igiene. Ma voi cambiate slip e mutande ogni giorno, ti giuro. Sondaggio sull'igiene. Ma voi cambiate slip e mutande ogni no, giorno. Hanno ascoltato le possibili sì, certo. Sì, possibili risposte, sì. Sì. Cioè, che sarebbe la cosa, diciamo, sì, secondo te normale, no? Sì, no, ogni 2 giorni, no, ogni 3 giorni, no, li riutilizzo almeno 4 giorni. Ecco, allora, tu cosa hai messo? Provo tu a votare votato ogni 3 giorni, aspetta. Ho messo ogni 3 giorni, grazie di aver votato. Il tuo voto sarà conteggiato tra pochi secondi. Vai, vai lì, a parte che ho votato 40 volte. Tutto. 40 volte, non è attendibile, chiaramente. Sondaggio, sondaggi di Libero. Allora, senti, no, sì, il sì, cioè la persona sì, che tu consideri normale prevale col 61. Beh, vedi, maggioranza ogni 2 giorni, cioè 20%. Li utilizzo almeno 4 giorni 10%, che ogni 3 giorni 9%. Ragazzi, legale, io faccio parte del, se sommi, diciamo, però se sommi sì, 20, quelli 30, che 39, sì, 39. Se sì, sommi quelli è pericoloso, però c'è un paese di zozzoni, ma questo già in parte lo sapevo, insomma. Ma andiamo alle follie referendarie, andiamo, ragazzi. Andiamo, andiamo, le andiamo, follie andiamo, referendarie. Eccoci, iniziamo qua oggi. Facciamo un po' di luce su tutti questi fatti oscuri della settimana. No, ma la follia referendaria, bisognerebbe fare una rubrica da qui al referendum. Le cazzate che ogni giorno vengono dette sul referendum. Per esempio, la questione degli osservatori internazionali sul voto estero, o non so, cioè Di Maio, tu sai Di Maio, no? Dice sì, che ci vorrebbe gli osservatori, chiedono gli osservatori. Ma come chiedete? Che vuol dire gli osservatori? Dell'ONU. Ma non si capisce, gli osservatori per che cosa? Di Maio per cosa? Perché c'è sempre dietro l'idea che qualcuno possa imbrogliare? Cose su... Lo diceva Berlusconi, ti ricordi, sul voto quello del 2006, sì, che c'erano stati, sì, dei brogli? Sì. No, per, sempre brogli. Quando uno perde sembra che ci sono sempre, dai, brogli. Quando uno su, perde. Gli osservatori. Già c'è tanta gente nei seggi che va a controllare, ma quali brogli, dai? Beh, è vero che adesso, come avrai letto oggi attentamente da tutti i giornali, il comitato del no, sì, dice che qualora il sì dovesse prevalere una con puttanata, il voto degli italiani puttanata all'estero, sarà tutto e se prevale, invece se prevale no all'estero è tutto regolare invece è tutto regolare no dice se prevale il sì, sì con sì. i voti degli italiani all'estero sì sì via, faranno ricorso tema. Faranno ricorso sì, ma sì, ti rendi conto dai Di Maio ma che roba Di Maio. Allora ci siano gli osservatori a queste elezioni, noi le chiediamo degli osservatori esterni, perché questo voto, come c'è il rischio di brogli negli italiani all'estero, per il voto degli italiani all'estero c'è un rischio di voto condizionato su tutto il territorio nazionale. Allora ragazzi, diciamo subito una cosa, il voto dell'italiano all'estero, io è da anni che mi batto, credo Parenzo sia d'accordo su questo, da anni sì. che mi batto su questa boiata, il voto degli italiani all'estero è una truffa sì, sono colossale, d'accordo con io te, ho visto delle persone... E infatti chi è che lo volle? Chi è che lo volle? Purtroppo il signor Tremaglia. Però aspetta, ex Repubblica Sociale Italiana. Vabbè, lasciamo perdere questa cosa. Ma no, Dio, ricordiamolo. Però voglio dire ma ti rendi conto tu che c'è gente in macchina che mi scrive sono in macchina, sì, sì. non scendo. Sì, vabbè, questo sempre succede. No, ma c'è gente che non vuole scendere dalla macchina. Però magari aspetta, ha appuntamenti. Aspetta. Ed è prigioniera di questa trasmissione. Bisogna liberare questa gente dalla trasmissione. Ti dico una cosa. Allora, il voto di tenere all'estero è una delle più grandi porcate che sono mai esistite. C'è gente che ha votato in questi giorni davanti a me con la scheda. Davanti a me, dunque, no. il voto sicuramente no, sì, ti giuro. Ma che roba c'è è? Gente che non è. Il voto non è segreto, facilmente manipolabile. Bisognerebbe cancellarlo. Sì, sono cancellarlo d'accordo. Domani mattina. Sì, e sì. cosa hanno fatto i grillini che d'accordo si lamentano adesso? Nulla! In Parlamento hanno presentato delle cose per abolire niente. Il voto di denaro all'estero. Niente, adesso si lamentano, ci possono essere dei brogli. La il comitato rete, del tutto, no. tutto truccato, Dai. Tutto finito. Di Maio, sempre Di Maio dice che in un paese civile De Luca sarebbe in galera, ti giuro. Dice così Di Maio, Una persona come Vincenzo De Luca, che Matteo Renzi sponsorizza e tollera per i suoi comportamenti, addirittura da incitare al voto di scambio, in un paese civile sarebbe in galera. Invece Renzi lo vuole promuovere a senatore della Repubblica. Vabbè, senatore semplicemente perché è governatore della Campania, cioè no, senatore della Repubblica. Allora, la questione è molto semplice. Quelle robe lì che avete sentito nei giorni scorsi di De Luca è una roba di voto di scambio, a parte che eventualmente saranno i giudici a occuparsene. Ma lui ha semplicemente elencato, De Luca, i soldi che Renzi ha dato alla Campania. Che il governo utilizzi il denaro per fare politica, quello è evidente. Che Renzi utilizzi il denaro che ha a disposizione sia il PD che il governo, naturalmente attraverso dei disegni di legge o quello che è, per fare politica, per sponsorizzare se stesso e dunque il sì, mi pare una cosa che tutti i governi fanno. Sì, ci sì. sono reati in questo? C'è un voto di scambio? Qualsiasi cosa allora è voto di scambio. Fate delle accuse precise. Dov'è il voto di scambio? Ha dato i soldi alla Campania per ottenere i voti della Campania? Bah, vedremo come voterà la Campania. Ah, Brunetta dice che vince no, 60-40. Cretino. Brunetta vince no 60-40 nei bar, solo gente scontenta, dice Brunetta. Nei bar. Brunetta, quando cazzo c'è bar? Brunetta, poi, e sempre al bar. Ma quando c'è bar? Per non vedere. Mai Brunetta sempre al bar. Mai andato ma sì, bar della Camera, del Senato, sì, quello infatti, dove mai visto dei bar. Cioè, bar normale Brunetta non c'entra, cioè non è che mi hanno detto, ho sentito, ma detto. Che Brunetta cosa? Cosa? E anche in Italia vi do una notizia, i sondaggi sbagliano. Sì. Sottostimano il no. Io credo che si finisca 60-40, perché se voi andate in giro tra la gente, nei bar, nei posti di lavoro, trovate solo gente scontenta. Sempre la Boldrini di mezzo, io non ce la faccio, Parenzo. Toglimi di torno l'argomento Boldrini. La presidente Boldrini. No, l'argomento di torno della Boldrini, il presidente della Camera Boldrini. La che dice presidente. Che se lei vuole farsi chiamare non me ne frega la presidente, non me ne frega un cazzo. Dice che ci sarà il drappo rosso finché ci sarà il femminicidio, che peraltro non esiste il femminicidio. Cioè finché ci sarà il femminicidio metterà il drappo rosso. Vabbè, ma dove questo. Non si capisce, un drappo rosso. Vabbè, questo non dà non mi pare una cosa Boldrini. Sulla facciata di Montecitorio c'è un drappo rosso che è un atto di denuncia e rimarrà lì, l'ho messo dal mio studio, rimarrà lì finché continuerà questa mattanza, lì a ricordare ogni giorno che nel nostro paese le donne muoiono per mano di chi dovrebbe amarle, quasi ogni giorno. Non esiste il femminicidio, Boldrini, non esiste. Vengono ammazzati anche gli uomini. Vengono seviziati anche gli uomini. Sì, ma c'è una peculiarità. Non esiste nulla, i dati non lo dimostrano. Non ho mai visto una donna che uccide un uomo, però, questo te l'ho detto tante volte. Non ho mai visto una donna che uccide brutalmente un uomo. Ho visto uomini che uccidono le donne. No, la Santanchè dice che non conosce rom che lavorano. La signora Santanchè. Ma non conosce Rom che lavora. Io non ho mai visto Santanchè lavorare, ad esempio. Beh, no, adesso questa è mai visto. No, non ho detto che non lavora. Dici, non ho l'hai mai detto vista, che la signora Santanchè. La vedi sempre in televisione, sì. Non sempre, lavora. A quinta colonna, direi immigrati, via, via, via. Dice che qualsiasi lavoro, dice oggi parliamo di economia. No, immigrati, via, via, via. Mai vista lavorare, ho visto in televisione, per carità. Rom Santanchè. Io non conosco Rom che non c'entrano nulla. No, Rom che lavorano. Conosco solo quelli che rubano. Io sabato ero in giro per le strade di Milano e c'erano 5 di queste persone che erano in giro e che rubavano i portafogli. Ed ora Donald Traffico. Nuova Giulietta Winter Edition. Optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presento La Zanzara. Cruciani, ho ospitato dei rom in casa più puliti di te. Ma no, questo è ingiusto. Questo è veramente ingiusto. Dai, questo è ingiusto. No, ragazzi, non è ingiusto, è ingiusto. Allora, vi faccio ascoltare una cosa che farà incazzare molto i grillini. È stata, credo, pronunciata dal professor Cazzola, amico tuo, il professor Cazzola. Professor Cazzola, certo. Che una volta si arrabbiò moltissimo perché abbiamo mandato in onda le cose del figlio, ti ricordi? Cose che disse lui sul fatto che era costretto a mantenere il figlio, no? Sì, il figlio, però aveva ragione, perché poi il figlio... Aveva ragione ad arrabbiarsi, io sto dalla parte sempre di chi si arrabbia. Ma perché? Che vuol dire? Scusa. Se, dipende, se si arrabbia... Manteneva il figlio, comunque lasciamo perdere questa cosa. Si è arrabbiato, mi ha telefonato più volte dicendo: ma perché avete mandato di qua? L'hai detto. Cioè, che io ho detto, infatti, io ho detto mi dispiace che abbiamo dato la colpa a me. Però, hai dato la colpa a me. Questo sarà Sandì. Però aspetta, professor Cazzola, adesso vedrai i grillini come si incazzeranno. Dice che se Grillo. Io ho dei matti, solo la parola grillini. Quello lì già quello mi manda i matti a me proprio. La rete, internet. Vi abbiamo ucciso. Siete morti, finiti, morti. Siete l'incubo. Noi siamo arrivati, governiamo. Che cazzo governate? Governate Roma, guarda che disastro c'è. No, disastro, non voglio essere... ancora non è un disastro, siamo agli inizi, dai. Capito, allora, ragazzi, sì, lo so, sembra che non sia governata, però aspetta un attimo, aspetta un secondo. Cioè, avanti, professor Cazzola che dice: se Grillo diventa presidente del Consiglio, ci vuole un colpo di stato dei carabinieri. Ti giuro, dice, il colpo di stato dei carabinieri. È un po' esagerato qua. Forse un po' esagerato. Mio amico professor Cazzola, grande economista, mio amico, forse un tantinello, un'anticchia, come dicono in Sicilia, un'anticchia. Cioè, esagerato. Se Grillo viene votato dagli italiani, questa è la sostanza. Mentre Renzi, ricordiamolo, non è stato votato dagli italiani, ma comunque è stato, come dire, scelto. Democrazia parlamentare, no? Ecco appunto, democrazia parlamentare. Incoronato dal Parlamento, sì. Ma non votato dagli italiani, lo possiamo aggiungere, perché comunque non è manco parlamentare, non è necessario che lo sia. Il professor Cazzola dice: se Grillo viene eletto dagli italiani, sì, i carabinieri dovrebbero fare forse un golpettino. Un po' no, troppo questo forse. Cazzola, lei muta come Beppe Grillo, credo, lo sa? Credo che con Beppe Grillo bisogna prendere le armi in qualche modo. Anzi, guardi, io mi auguro che ci siano i carabinieri che facciano un colpo di stato il giorno in cui vincerà la Cazzola, no. Il professore Cazzola, amico mio. In questo caso si potrebbe dire omen nomen, in questo caso, però non voglio dire cose. Ha detto una cazzata. Ho detto una cosa latina. In questo caso si potrebbe dire è un po' omen nomen in questo. Ragazzi, però... professor Cazzola, amico mio, dai, su, non dire stupidaggini. Il colpo di stato dei carabinieri con Grillo presidente. A parte che Grillo purtroppo io dico, perché si dovrebbe farlo, non si presenterà, non si vuole presentare, non ci vuole mettere la faccia in prima persona, non si capisce come possa guidare un movimento essendo il capo politico senza presentarsi lui, una contraddizione in termini. Comunque, dice Cazzola, si vuole diventa presidente del Consiglio, i carabinieri devono fare un colpo di stato. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, ma poi dice che siamo contro 5 Stelle. Diciamo che questa, per esempio, è una cazzata. Sì, dunque non siamo giusto. Contro i 5 Stelle, no, non ci rompete i coglioni. Tutt'altro, non ci, ecco. Ah, Maurizio da Milano, chi c'è? Maurizio da Milano. Apriamo già le stalle. Sì, apriamo. Mi sono ciao scocciato. Davide e Giuseppe, ciao. Qui sì, non sono di stalle, volevo solamente fare una considerazione. Io vi ascolto tutte le sere, dalle 6:30 fino alle 7:30 qua a casa. Però io capisco la vostra trasmissione, che sia trasgressiva, sì, tutto, allora? E va bene tutto. Però io penso che quello che è stato detto ieri sul Papa, penso che va proprio oltre. Ma che abbiamo detto sul Papa di nuovo? Sì, scusa, no, dai, la battuta che hai fatto, ha detto quella parola. Quale quella parola? Quella con l'imitatore, su, la sai benissimo. Ma quale? Quella è un'intervista fatta da TV 2000 al Papa, mi è scappata la frizione al Papa. Ho capito, ha detto quella parola. Hai ascoltato il Papa, hai sentito il Papa. Guarda che una volta il Papa l'ha detto. Scusa, amico mio, ma di che stiamo parlando? Quella è un imitatore, non è il Papa. Ma che ne sai tu? Quella è un'intervista di... Un'intervista ma quale intervista? Quella è un imitatore che hai preso tu. Quale intervista al ma Papa? Ma scusami, adesso vuoi risentire? La vuoi ma risentire? Ma forse meglio di no. La vuoi risentire? Quello è un imitatore. Ma sì, amico, ma è un giudizio sull'anno santo. Un giudizio sull'anno santo. Del Papa, quella giudizio è la voce del Papa. Complessivo sull'anno santo. Cioè, ha dipinto la situazione. Era più lunga la domanda della risposta, diciamo, no? Quella che hai trasmesso tu è la voce amico del Papa. Noi abbiamo preso l'audio dai siti, tuo, da TV 2000. Ma non è amico mio, amico tuo. Ma scusa, ma il Papa è uno che parla pane al pane, vino al vino, cioè Davide, uno molto scherzo. Davide è l'altro. Giuseppe, dico, questo sicuramente è fa bene a farlo, però tu lo capisci da solo che pure tu ci avrai un limite nella vita, no? Ma com'era questa cosa? Aspetta, ma non c'è nessuno, qui noi prendiamo in giro tutti, il Papa, Maometto, quello che vogliamo, prendiamo in giro. Qui non c'è nessuna presa in giro, ti faccio riascoltare, stai attento. Santità, innanzitutto grazie per il tempo che ci concede, lo consideriamo un regalo a tutti i telespettatori di TV 2000. Con lei vorremmo conversare sul giubileo che si è appena concluso. Il termine bilancio ha un suono commerciale, no? Va bene per le aziende, ma quali sono le sue impressioni? È contento di come è stato vissuto il giubileo e quanto santo è stato questo anno santo? È stato un anno veramente del cazzo. Allora, tu ti sei sentito colpito da questa cosa? Senti che non è la voce del Papa? Ma no, la sento la voce del Papa, sai? No, ma non è la voce del Papa, no, scusa, che cazzo dici? Non è la voce del Papa, è inutile che insisti. Vabbè, adesso io andrò a controllare, è una presa per il culo, lo capisci che è una presa andrò per il culo. Andrò a controllare. No, mettiamo che tu abbia ragione. Sicuro che non è la voce. Ma adesso andrò a controllare, magari mi incazzo pure qua se mi hanno spacciato una cosa che non è così. Ma allora, non è passare sicuro al 100%. Ma spiegami una cosa, anche se fosse una cosa così, qual è il problema? Non ho capito. Ma scusa, lo capisci una volta da il solo? Papa stesso, sbagliando, si è utilizzato quella frase? Che vuoi? Ma va bene. Papa tutto, è uno che dice tu, le cose così spontaneo. Giuseppe, il problema di questa società che adesso la ognuno società può dire tutto e fare tutto, lo ma meno male, meno male. Ma pensa no, meno male che vogliamo cazzo tornare indietro, ma vogliamo tornare ma meno male un cazzo, perché poi lo vedi che cazzo lo dici pure tu, cazzo lo dici pure tu, lo dici bollino qui, mi pare lo dici pure, lo dici anche tu, però lo dici anche tu. Ma io non sono il Papa, lo capisci? Beh, dica caspita, almeno lei, io sono un cittadino come te, lo capisci? Ma pure il Papa, se il Papa parla come noi, tutti ci sentiamo più vicini al pontefice. Però tu, se tu chiami un imitatore e gli fai dire una frase che dice il Papa, non è la stessa cosa, lo capisci? Ma non capito, è la stessa amico cosa, mio, no? Amico mio, no, amico mio un cazzo, è una vita è ancora. Io ma ne ha detti più lei in questi tre minuti di trasmissione, certo, che cruciale, certo, in un mese di Zanzara, praticamente ne fa volare Papa, come Davide, fosse. Io non sono, ho capito, il Papa, io sono un ma perché, cittadino. Ma ho capito che il cittadino deve far volare. Ma lo dico apposta, cazzo, parolina, quattro volte, ancora, ma lo dico apposta. È un motivo. Ciao Mori, ciao Mori, ciao. Ragazzi, vi lasciamo, poi riprendiamo naturalmente, se qualcuno vuole. Sì, ma parliamo un po' di Yanis Varoufakis o no? No, parliamo di Richard Benson. Richard Benson. Non è un economista. Amico mio, Richard Benson, Benson è un chitarrista abbastanza noto, ha partecipato anche a trasmissioni televisive, film, eccetera, il quale ha dichiarato di stare male, di non avere i soldi per pagarsi le medicine, eccetera, eccetera. E poi a un certo punto ma è quello che urla, che fa, io dice chiede aiuto a Berlusconi, amico mio, però Berlusconi c'ha tanti problemi adesso. Comunque, ma tutti chiedono aiuto a Berlusconi, hanno una difficoltà. Chiediamo aiuto a tutti, lancio un appello anche al signor Berlusconi, se ha la possibilità di darci anche una piccola casetta. Questa è la moglie, questa è la moglie. Ti devi spaventare. Richard Benson, senza denti, con le unghie ingiallite dalla nicotina. Richard Benson. A più tardi, amici miei. Cruciani, dopo questa sera ho capito che sei un gran coglione. e anche un po' testa di cazzo. Bravo. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da Axerta. Indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. Scegli Pantera col TH. Scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta La Zanzara. Zanzarosi e soprattutto zanzarose, venerdì ho incontrato Cruciani e non puzzava, non puzzava, altro che Parenzo che si fa due docce al giorno, non abbiate paura di avvicinarlo, profuma, è bellissimo, è tutto per voi. Beh ragazzi, non esageriamo adesso, non esageriamo con le slinguate, non esageriamo con le slinguate. A me fanno impazzire i manifesti, ogni tanto i proclami delle chiese americane, caro Parenzo. Fossimo sì. In America, questa trasmissione potrebbe anche campare per 50 anni di seguito, sì, credo. Sì, è vero. Con tutto il materiale umano a disposizione, non che manchi qui in Italia, per carità. Però in America, diciamo, si raggiunge il top. A parte che, apro una parentesi, quanto mi fa godere Trump che ce l'ha con tutti i giornalisti americani, che li devi mandare tutti a fare in culo. Sì, li ha convocati, Donald, oggi ho visto. Chiamali, mandali tutti a fare in culo. Lo ha fatto, non parlare detto. Mai con nessuno, solo YouTube, solo i tuoi canali. Fottitene i New York Times, i giornalisti che ti hanno buttato merda fino all'ultimo secondo. Mandali tutti a fanculo. Per 5 anni, 4 anni, quelli che sono, mandali a fare in culo. Senza nessuna pietà. Vabbè, comunque ti dicevo del manifesto di una chiesa americana. Sì. È la chiesa avventista del settimo giorno. Il settimo la giorno, chiesa certo. Avventista del settimo sì. giorno. Cosa ha fatto la chiesa avventista? Manifesto per alcune strade americane. Senti che come recita questo manifesto. The most powerful position, la posizione più potente da tenere è stare in ginocchio. Bellissimo, manifesto enorme. Vabbè, doppio senso molto chiaro, no? No, ma qual è il doppio senso? Lo leggi solo tu il doppio senso. Beh, sì, insomma, mi pare chiaro, insomma, mi pare abbastanza evidente. Non c'è nessun doppio senso. No, per me c'è il doppio senso abbastanza. Ah, per te, perché sei malato. Però dentro, farei risentire il dottor Cazzola. Perché Cazzola, quello sì. che ha detto, perché da Cazzola non è più deputato da un sacco di tempo, è fuori dai giochi, è abbastanza renziano, diciamo, il professore Cazzola. Sì. È uno che conosce molto di pensioni italiane, è un professore universitario, fortemente antigrillino. Senti cosa dice, immaginando Grillo presidente del consiglio eletto dagli italiani. Cazzola, lei vota come credo, Beppe Grillo, credo che, lo sa. Credo che con Beppe Grillo bisogna prendere le armi in qualche modo. Anzi, guardi, io mi auguro che ci siano i carabinieri che facciano un colpo di stato il giorno in cui vincerà le elezioni. Cazzola, no. Colpo di Stato se Grillo va al potere. Non ha manco detto Grillo eletto presidente del Consiglio. Cioè, se i grillini dovessero andare al potere, cioè nemmeno Grillo, no? Vabbè, ragazzi, è un delirio, dai. Paradosso. Ma che paradosso? È un delirio e basta, dai, è un delirio, dai. Io non penso che immagini davvero l'intervento dei carabinieri. Capito, l'ha detto seriamente, non so se immagina, ma no, invece non solo lo immagina, lo auspica. Scusa. Ha detto una sciocchezza, dai. Una sciocchezzuola mega galattica. Mentre Cazzola dice qualche cazzata, pure i grillini non è che ci vanno leggeri. Se Atene piange, Sparta non ride. C'è un come signore al comune di Mirandola, che è governato, credo, se non sbaglio, proprio dai 5 Stelle, però non vorrei sbagliare, forse no. Il consigliere pentastellato del comune di Mirandola, che si chiama Nunzio Tinchelli, che dice: Casini vota sì, vado a lubrificare la doppietta. Questa gente non se ne va finché non sarà il buon Dio a chiamarli a sé. Su chiamata o con invio coatto. Cioè, praticamente questo qua ha visto Casini, credo ieri sera, alla come cazzo si chiama, la trasmissione della Gruber. Sì. E ha detto: vado a lubrificare la doppietta. La doppietta per Casini, signore dei 5 Stelle. Questo è il clima, signori! Pazzesco. Questo è il clima in Italia! Vorrei segnalare alla Boldrini e ad altri che io non credo molto alle ricerche, però nei giorni scorsi è uscita fuori una ricerca dell'Università di Siena, che sì, ha detto che ci sono 5 milioni di uomini che ogni anno sono vittime delle violenze femminili di tutti i tipi, violenze femminili che riguardano ovviamente i padri separati e cose di questo tipo. Ah, ecco, vabbè, 5 sì, milioni di uomini vabbè, ogni anno. Io non ci credo. Ma non ha nulla a che vedere con la violenza tecnicamente. 5 milioni di uomini ogni anno che sono vittime delle violenze femminili. Sì, ma non della violenza sessuale, è un'altra cosa. E no, riguarda anche, gli uomini anche verso quello, le donne. Questo è abbastanza risaputo, diciamo, dai. Allora, Maurizio da Verona, vai, iniziamo, dai. Proseguiamo. Sì, sì, Maurizio. Senti. Dimmi. Mi senti? Sì, sì, vai, dimmi. Senti, ma tu, lei ha ascoltato veramente il discorso di De Luca oppure no? Sì, certo. L'hai ascoltato integrale? Assolutamente sì, assolutamente. Ecco, io non so come tu possa prendere le difese di un personaggio. Io non ho preso nessuna, insomma, difesa. L'hai assolto. Io lo assolvo sempre in quanto governatore del mondo. Lo assolvo sempre perché ecco, è un grandissimo politico, secondo me. Grandissimo, infatti, di altissimo livello. No, ma il suo discorso era pieno di contenuti politici, infatti. Andate amico a votare mio, così soldi, così Renzi manda i soldi. Secondo te questa è la politica, è una cultura politica. Devo dire, ma adesso lasciamo perdere questo. Questo è importante, per carità, è un discorso molto crudo questo qua, no? Siccome ma Renzi, scusa, ma è, scusami Maurizio, ma è un siccome discorso al limite, cioè di che cosa? Della camorra, vuoi dire? Un camorrista. È un discorso allucinante. Di Maio dice che dobbiamo, che bisogna andare in galera, deve andare in galera De Luca, è uguale, dunque secondo te? Galera, insomma, adesso in galera non lo so, però non è certo un esempio. Allora, Maurizio, se ha ragione cazzo, su questo, è stata una uscita totalmente infelice, tant'è che ha chiesto scusa. No, De ma Luca, non quella sulla Bindi, sta parlando di un'altra cosa. Io sto parlando di De Luca. Appunto. Non credo che abbia chiesto scusa per il discorso che ha fatto. Ha chiesto scusa. C'era un trafiletto piccolissimo sui giornali, per carità. Ma vai a vedere. De sì, Luca comunque, ha chiesto ragazzi, scusa. A me quando uno chiede scusa non mi interessa. Mi interessa so, la sostanza. Tu sei come Fonzi, no, a me interessa la sostanza. Perché non sapeva di avere esatto, un giornalista all'interno. Allora, la realtà è molto semplice. De Luca ha detto, siccome questo qua ci ha dato dei finanziamenti, dei soldi, fare cadere Renzi, dice, è una cazzata, perché questo qua ci ha riempito di quattrini. Cioè, questo che vuole dire. Cioè, non, poi che tu ci voglia vedere un do-ut adesso, uno scambio, eccetera, ma non è che... Cioè, ragazzi, poi vedremo no, i voti in campagna aspetta, che effetto hanno avuto. Cioè, i soldi di Renzi. Scusa cioè, un attimo. Noi pensiamo lui, ancora che siccome ha riempito di soldi la campagna, i campani voteranno a favore del sì. Ma io ho dei dubbi no, su questo, cioè... Ma, chissà okay, quando arriveranno allora, quei finanziamenti, chissà ma, quando verranno dati. Cioè... Ok, però un governatore regionale. Che ragazzi, De Luca è questo. Ma De Luca è questo, non è un'altra cosa. Non è Cacciari, non è un filosofo, non è Cacciari. De Luca è uno che fa politica da quando è ragazzino. Allora, devi esprimere tu in un altro modo, perché se tu in una radio nazionale assolvi. Io non sto assolvendo, amico mio, io non mica sono no, papa. Comunque io da te. Da te, non so se forse ce l'hai fatto apposta come provocazione. A me la clientela mi fa schifo, guarda. A me le clientele, il nepotismo, le raccomandazioni, il comprare il voto attraverso anche il denaro, i posti di lavoro, mi fa orrore. Se ci ecco, so, allora, mi fa allora, orrore. Vabbè, se già, ci okay, sono dei reati in quello che ha detto De Luca, la magistratura provvederà, farà le sue indagini e casomai condanneranno De Luca per voto di scambio. Lui ha semplicemente detto una cosa. Siccome Renzi ha riempito la campagna di soldi con finanziamenti che non sono quelli della camorra, sono quelli legittimi del governo attraverso dei provvedimenti. Se questi provvedimenti sono legittimi o sono solo provvedimenti elettorali, questi sono cazzi di Renzi. De Luca ha detto: siccome questo qua ci ha aiutato con tutti questi finanziamenti, che vogliamo fare? La vogliamo buttare a mare? Renzi dice: vogliamo andare contro Renzi? Dobbiamo votare sì per questo. Diciamo, le due cose andrebbero disgiunte, perché il sì chiaramente è per la riforma costituzionale, però sappiamo che ormai è tutto è un referendum su Renzi. Questo mi pare evidente, no? Sì. Achille da Pisa, dai. Ah, Achille, ottimo. Io bisogna salutare un Achille, peraltro. Sì. Per oggi mi ha scritto un amico che mi dice: come cazzo oggi me ne frega a me di Achille? Beh, no, sono però aspetta, in, in piano transagonistico. Oggi tu mi interrompi è così. Il compleanno di un mio collega che è un tuo grande fan. Si chiama Achille. Ma che cazzo tu hai detto me ne frega Achille a me? Ma ho capito, ma, no, ma non poverino, è che siamo qui oggi ai all'ospedale perché si è fatto male a un occhio. Cioè, dispiace, mi potete fare gli auguri? Ma allora, no, tanti... non gli facciamo gli auguri. Non ce ne frega niente, Achille. Ma come ci frega? Si è fatto male all'occhio? No, non mi interessa. Non mi interessa, Achille, che si è fatto male all'occhio. Così con Achille? No, non lo so chi sia, non me ne frega un cazzo. Voglio sentire questo qua da Pisa. Che chiama? Vai, sentiamo sto Achille da Pisa. Parla, Crucià. Dimmi. Allora, guarda, niente, io chiamavo per quell'intervento che c'era stato ieri quando aveva chiamato quel signor islamico Hamid. Hamid. E nulla, un pochettino così mi ha fatto incazzare. Io di solito sono quasi sempre d'accordo con te, però ho fatto incazzare, chi se ne frega? Non aggiungi chi se ne frega. Nel senso, perché io aggiungo chi se ne frega? A prescindere soltanto perché è islamico. Ah, tu islam. Lo pigliavo un po' per il culo, perché qual è il problema se lo piglio per il culo? Posso pigliare per il culo pure uno che parla in napoletano, in milanese stretto, in piemontese o in veneto stretto, come li pigliamo per il culo? Questa trasmissione è fatta così. A prescindere da un attacco soltanto perché è islamico. Ma se tu ti incazzi, secondo me ti ha fatto fare pure una figura di merda lui, perché non ti ha risposto minimamente. Insomma, ha fatto fare una figura di merda. Sei contento? Mi ha fatto fare una figura di merda? Vuoi che ti dica sì? È vero, mi ha fatto fare una figura di merda. Bene, adesso passiamo avanti, non ci rompere i coglioni. Ciao a tutti gli autisti, fermatevi nelle piazzole dove ci sono i gay, dormite tranquilli e loro vi curano il camion. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Gamma Suzuki 4x4 All Grip, a partire da 13.900 euro. Suzuki. La Zanzara. Volevo dire a Parenzo che è veramente sexy. Cioè, nel frattempo che mio marito fa pipì nel lavandino, se lui volesse intrattenere me, saprei fare un ottimo lavoro. Beh, caro David, c'è anche un sacco di gente, di donne della maggioranza silenziosa che vedono i loro mariti comportarsi in maniera perversa, in maniera negativa, e chiedono aiuto a chi è raziocinante, a chi è ancora dentro il cervello un minimamente elegante, direi io. Ma chiaramente questa minimamente elegante, questa signora vivendo con una scimmia, è chiaro che alle volte ha bisogno di avere quel minimo di educazione, di galateo, di buon che gusto. Che solo tu puoi assicurare, diciamo, in questo contesto. In generale posso assicurare solo io un po' di buon gusto, un po' di galateo, andare a cena a casa delle persone, non mettersi le dita nel naso, mettere il non tovagliolo, tirare le caccole addosso agli altri. Per esempio, un gioco divertentissimo che faccio ogni tanto è prendere le caccole e tirarle addosso ai tavoli vicino. Però non puoi far passare questo come una cosa normale. Tu sai io questo vorrei dirti. Ti racconto un episodio. Ma che infanzia hai avuto tu? Ma che razza di infanzia hai avuto? Ti racconto una cosa. Quando ero a casa mia a Via del Governo Vecchio a Roma. A Roma, certo, sì. A Roma mi mettevo. Di una famiglia anche per bene, mi pare, cioè papalina, famiglia di origine, come dire, di tradizione papalina. Ma infatti mi fa molto strano tutto questo. Ci sono un sacco di banditi intorno al Papa, come sai, no? Sì, questo adesso. Allora, mi mettevo sulle finestre di casa mia, che davano su una pizzeria che stava sotto. Sì. Pizzeria ben nota a Roma, non dire il nome di questa. Conosco pizzeria. Benissimo, vado a mangiare la pizza un sacco di volte. Non dire il nome, no, altrimenti si identifica casa mia. Comunque, pizzeria ben nota a Roma. Quante volte hai detto il mio indirizzo di casa? Diciamo l'indirizzo di casa tua. Pizzeria Baffetto a Roma. Allora, mi mettevo sopra al primo piano, che però una casa di quelle alte antiche, no? Dunque il primo piano è già molto alto rispetto ai primi piani di adesso. La casa cinquecentesca, eccetera. Mi mettevo sopra e con le persone sotto, che erano con la tavola imbandita, no? La pizzeria sotto. E facevo una piccola sputacchiata. No. Hai avuto un'infanzia terribile. È meraviglioso. E vedevo la sputacchiata arrivare dritta dentro la pizza. C'era questa gara con me e gli altri amici. Che porcheria. Chi beccava esattamente la pizza. La pizza dentro. Beh, è meraviglioso. Era stupendo. Ma facevi. Cosa facevo? Dimmi. Facevi anche i gavettoni con l'urina? No, quella no. Questa piccola gara. Poi ci hanno beccato un giorno, insomma. Allora, Vincenzo De Luca replica a Luigino Di Maio. A Luigi Di Maio, Luigino lo chiama lui. In un paese civile, a Luigino Di Maio toglierebbero i 13.000 euro di stipendio e lo manderebbero a comprarsi la merendina. La merendina. Sapete che oggi Di Maio ha auspicato la galera per De Luca. Una persona come Vincenzo De Luca, che Matteo Renzi sponsorizza e tollera per i suoi comportamenti, addirittura da incitare al voto di scambio, in un paese civile sarebbe in galera. Invece Renzi lo vuole promuovere a senatore della Repubblica. Pino da Caserta, vai Pino! Pronto? Ciao. Ciao Pino, dimmi. Allora, volevo dire che... Ciao, com'è che mi hai chiamato? Scusa, non ho capito. Cicci. Siete due Cicci, due Cicci. Cioè, Ciccio, due Cicci. Ma perché mi devi chiamare Cicci? Come si permette? Comunque, vabbè, Pino, dimmi, dai. Andiamo avanti, andiamo, voglio essere buono, vai, andiamo avanti, dai. Va bene. Allora, 4 anni fa... Sì. Io e un mio amico stavamo in macchina, usciti dall'autostrada, sulla statale, ci siamo fermati vicino a 3 prostitute. Dove? Parla un po' più forte, scusami. Sei andato... Tre bruttaccione, erano 3 bruttone. Cioè ti sei fermato vicino a 3 prostitute, sì, sì. Esatto. E perché ti, perché ti sei fermato a parlare? Perché da cosa volevo vedere com'erano, da cosa nasceva cosa. Da cosa nasce cosa, volevi andare a puttane, da cosa nasce cosa, che c'è in la conversazione filosofica. Se mio amico offriva, sì, perché non avevo soldi. Vabbè, non avevi soldi. Comunque, dai. Sì, se il mio amico offriva... pure che erano brutte, fa niente. Comunque poi scherzavamo con queste, No, vai avanti. Scherzavamo? Sì. E all'improvviso mi sono scocciato e me ne stavo andando con la macchina. È molto lungo questo racconto, parezzo. No, sì, abbiamo la trasmissione il 24 di dicembre, non va in onda, quindi se è possibile. Allora Pino, vai. Allora sì. Stavo andando via, sta autocivetta, si butta avanti col pistole, vi hanno fermati i carabinieri, era molto facile riassumere, ci hanno fermati i carabinieri. Sì. Comunque dice, tu stavi contrattando con questi, sì. Quando mai? Io stavo con la, io stavo fermo, che stavo vedendo la pizzeria, e loro si sono, e mi hanno fatto 500 euro di multa. Ottimo. Io ho fatto di colpo. 500 euro. Hai fatto ricorso, sì, dove? Infatti gli ho chiesto, scusa, ma se me la scopavo quando veniva a fare... Vabbè, adesso il dettaglio. 500 euro. E stai dicendo, perché non le chiami? La cosa bella è che loro le conoscevano, perché le chiamarono per nome. Anna, beh, cioè, certo, le conosco. Ma come, voi le conoscete? Beh, è normale che le conosco. Conoscete. È normale. Ah, e cioè, se a me non gli chiedete neanche i documenti, ma perché non le fate andare da qua? Cioè, no, perché non è reato. Non si spostano. No, che non si spostano. Il sindaco di quel paese ha fatto l'ordinanza. Va bene, allora la conclusione di questa cosa, l'hai pagati questi soldi o no? No, perché un mio amico avvocato mi ha fatto il ricorso e prima che potesse fare la cosa uscì una sentenza della Cassazione. Vabbè, hai fatto ricorso e hai vinto. Sì. Bravo, sì. applauso a Pino, facciamo un bel applauso a Pino. Ma che bel applauso? Bel applauso a Pino. Ma è sposato Pino? Sei sposato Pino? No, e appunto a me non me ne fregava niente. Se arrivava a casa, non arrivava a casa, se usciva sul giornale, non me ne fregava proprio niente. Mio amico sì, era sposato, però ma non gliela potete fare a lui. Se no, guidavi tu e la dobbiamo fare a te. Allora, però vabbè, a me Pino... non me ne fregava niente. Come Corona quando ha fatto al giocatore delle foto 50.000 euro, quello non era sposato, non si fregava niente. Vabbè Pino, a ciao. Hai finito questo racconto? Ciao. Hai finito il racconto? Sì, ciao. Ciao. Grazie, Dario, grazie. Provincia di Venezia, vai, Dario. Dario! Pronto? Sì, dimmi Dario, dimmi. Pronto? Sì. Scusa. Dario, dimmi, dai, allora, su, forza, non fare lo spiritoso. Porca puttana, sto prendendo la testa. Io mi stavo chiedendo, ma perché non si può scopare in pubblico? Vabbè, Dario, vai a fare in culo, vai. Ciao, Luciano dalla provincia di Viterbo, dai. Ma scocciato questo qua, dai. Luciano, provincia di Viterbo. Stai sprecando una trasmissione quando c'è un problema vero, serio. Da qual è il problema? Dimmi. È Richard Benson, sta senza una lira. Ma poverino. Adesso lo chiamiamo fra poco, guarda, abbiamo qua il numero. Perché questo è un uomo lo che chiamiamo. È stato dedito, ma lui ha delapidato un patrimonio, senza denti, col bastone, si è preso le uova marce in faccia da tutti. È una cosa meravigliosa, è stupendo. E meraviglioso, e dobbiamo aiutarlo. Ma tu lo conosci bene, no, sto Richard Benson? Ma non lo conosco manco per il cazzo, io ho tirato una volta nuovo. Quando gliel'hai tirato nuovo? Scusami. Però bambino, A un concerto, dici. Sì, no, vogliamo ricordare sì. Che questo Richard Benson è un cantante, un chitarrista, un cantante, un personaggio televisivo. Dicono del 55, nato forse in Inghilterra, il quale è diventato famoso. Ma come forse? In Inghilterra non saprà se forse in Inghilterra, Inghilterra o no. Ma alcuni dicono Riccardino, Riccardo, hai rotto i coglioni. Ma e sì, una roba nato a Torbella Monaca. È diventato famoso soprattutto perché a un certo punto andava ai concerti sì. E la gente gli tirava la roba addosso e faceva circolare i video su internet. Ma che roba è? Sarà mica signor Richard Benson. Luciano, cioè è diventato famoso perché gli tiravano le cose sì, addosso. Adesso ha fatto un'intervista oggi che è uscita sui siti in cui dice di essere malato. Mi spiace. Non hai soldi per le medicine, spiace, non hai soldi per nulla, chiede aiuto ai ma fan, quello che urla, fa delle urla pazzesche. Luciano, non ho capito, tu che cosa proponi?

Ma quante sigarette fumi? Dimmelo! Quante? 50. Ma sarà mica normale, però, ragazzi. Tre pacchetti al giorno. Sì, però, ragazzi miei, fidati di me. Ti saluto, ti saluto. No, ma basta fare sti urli, basta fare sti urli. Ciao, ciao, numero uno, ciao, ciao, ciao. Signore e signori, era però il signor Richard Benson. Io mi metto nel... Amico mio, se uno però, gli abbiamo anche detto, se uno è malato di cuore, sì, non di, urla solito, così. Di solito, di solito, in genere. Comunque devo fare l'elenco. Poi mi metto nei panni degli ascoltatori di Radio 24. Ma cosa c'è? Cioè la radio della Confindustria. Ma no, ma ormai il presidente Boccia che sale in macchina dopo aver fatto una giornata intensissima di lavoro. Sentiamo, vediamo con calma cosa racconta la mia ottima radio. Gira, accende. E sente sto pazzo che urla, ma che roba è? Ma che cos'è, ragazzi? Che cos'è? Tutta gente rispettabile che ascolta e sente quel cavernicolo che ma urla. No, che dai. Poi viene a mendicare soldi, che dice che non ha soldi, ma e no, urla. Scusami, dai. Ma che roba è? Bisogna di quattrini, 3.000 euro al mese, fin dei conti, dai, su. Beh, ho capito ora. Chiesto pure a Pier Silvio Berlusconi, a Barbara D'Urso. Mamma mia, secondo me tu sei il tipo che scopa coi calzini. La Zanzara. Sono ospite di una comunità religiosa questa mattina. Mio marito in chiesa ad ascoltare la messa, io invece in pineta ad ascoltare il podcast della Zanzara. Chi è al top? Beh, sei certamente al top tu, cara signora, che ci chiami e ci lasci questo meraviglioso messaggio. Non capisco poi che cosa significa avere il marito ospite di una comunità religiosa. C'è qualcosa che non torna in questa frase, no, Parenzo? Come si fa? Beh, sì, sì. Ospite di una comunità religiosa. Bisognerebbe indagare sul tipo di comunità. Saranno comunque i pentecostali, queste cose qui. No, magari una comunità di recupero per ex tossicodipendenti. Non lo so. No, insomma. non credo. Non lo so io, che ne so. Riccardo da Latina, vai. Pronto? Dimmi. Ma qual è Riccardo? Sono Richard Benson di nuovo. Mi sono dimenticato di salutare che tutti quanti. Che fai? Limitazione, dai, limitazione, dai. Ma sì, ma limitazione, ma io sono un grande fan di Richard e spero che stia bene. Lui ha lavorato anche con Carlo Verdone, mica è diventato famoso facendosi terale ova, hai capito, Parenzo? Sei uno schifoso! Schifoso! Riccardo, vabbè, hai cercato c'è di imitare tanti problemi di demenza in giro. Hai cercato di imitare Richard Benson. Non ti permetto di offendere. Io sto male, hai capito? Sì, beh, lei, sì, questo si capisce. Questo è evidente da quello Carmine che dice. Rimini, vai, Carmine. Carmine. Ciao Giuseppe. Dimmi. Ciao Parenzo. Vai, allora, vai. Senti, voglio fare una cosa, una controdelegazione. Assolutamente bisogna fare la Casa Bianca rispetto a Renzi, perché non se ne può più. Bisogna che vuol dire una controdelegazione alla Casa Bianca rispetto a Renzi? Spiegati un po' a parole tue, perché non è chiaro quello che vuoi fare. In poche parole vorrei internazionalizzare il discorso, la tua provocazione fatta da Zanzara, la vorrei internazionalizzare. Ma che vuol dire concretamente? Cosa vuol dire? Concretamente vuol dire che bisognerebbe dimostrare che possono andare alla Casa Bianca anche delle persone poco raccomandabili, tra virgolette. Cioè, allora, una specie di provocazione... diciamo di questa controdelegazione. C'era ma che vuol dire la controdelegazione? Ma quando? All'inaugurazione della Casa Bianca? Quando? Sì, all'inaugurazione della Casa Bianca. Ma non lo so se sarà consentito a qualcuno di introdursi, di infiltrarsi, non credo naturalmente. Allora Carmine, tu che cosa vorresti fare? Non ho capito. No, l'idea di un amico, l'idea mia è quella di trovare 10 personaggi, diciamo, della Zanzara, bene o male. Ma non è che possiamo andare noi in delegazione all'inaugurazione di Trump, amico mio, non funziona così, non è un invito, cioè come si fa alle feste, eccetera. Noi ci presentiamo. Ma ci presentiamo come? Ma comunque ci si può pensare. Dobbiamo ma creare un tormentone. Mario da Bari, ci si può pensare, ci si può pensare. Mario da Bari, vai. La gente sta disperata, buonasera. Sì, Mario, dimmi, dai, togli viva voce, dai, togli viva voce. Parenzo, togli sì, viva voce. Vediamo di usare un linguaggio adesso consono, perché la gente si sta mettendo a cena, magari con la propria famiglia. Togli, sta per sorseggiare voce del buon vino. Pronto? Non diciamo allora parolacce, per cortesia. Lo dico soprattutto a questi miserabili, Parenzo, che chiamano. Dimmi. Parenzo, mentre sì, lei vaga per sauna alla ricerca della sua dubbia sessualità, la gente si puzza dalla chi parte. Scusi? Non lei ho capito cosa ha detto questo, no, miserabile. Ma perché dovrebbe, sì, vagare per sauna, sì, alla ricerca della sua, sì, sessualità? ti posso assicurare, guarda, ecco, magari, bravo, a ogni, magari a Mario, magari a Parenzo può avere come tutti tanti difetti, no? Sì, bravo, però su una bravo. Cosa posso essere certo, bravo, che diglielo. È certamente eterosessuale. Certamente, bravo. Che ne dica, no, Mauro, molto, da Mantova. Anche molto. No, molto sembra che dire. Sei un po' contro i proci. No, no, no, ma nel senso che sono un eterosessuale convintissimo. Vabbè, Mario, per, allora? Per carità. Parenzo, eterosessuale da minchia, basta sentirti parlare. Sei un ricchione amico di De Benedetti e basta questo, ma per votare no. Ma adesso, no, però scusami, adesso, cosa c'entra? Io capisco che le persone disturbate ormai telefonano tutte qui, perché la trasmissione è fatta in convenzione col Ministero della Salute. Abbiamo siglato un accordo tra la Zanzara e il ministro Lorenzini. Aspetta, Mario, quindi puoi levare il disturbato nuovamente telefona. Levare viva, ecco, voce? E quindi nuovamente. Impari a telefonare intanto, impari almeno a telefonare, disturbato che non ma è io altro. Telefono quando voglio e poi il gusto di prenderti per il culo, visto sì. che ti piace pure. Parenzo. Sì. Ma di chi parla? Cosa parla, scusa? Non ho capito. Insiste sull'omosessualità di Parenzo. Vabbè, la manifesta, diciamolo chiaramente, la manifesta omosessualità di Parenzo. Ma perché manifesta? Perché manifesta? Se si diverte così questo qui. Parenzo, ridi, guarda, che tanto tua moglie si sta divertendo a casa, mentre tu chiami qui. Sono contento per lei, anche lei è contenta. Anche lei è contenta quando sei a casa. È lì che ascolta la radio, ah, guarda, il cornuto. Il cornuto è là. Perché tua moglie è contenta, dai. Beh, di la questa, verità che hai fatto aprire le frontiere è, così tua diciamo, moglie dorme la bene classica la notte. Battuta che è stata fatta già tantissimi anni fa, ma non è una battuta, goliardico. È un fatto, Parenzo, è un fatto, è un... Non anche tu al referendum, oltre a questo, caro, cosa che aveva da dire? Oltre a questa genialata, la cosa che mi ha fatto più godere, sentiamo. Che ancora non smetto, è Trump. Parenzo, di la verità, te lo sogni la notte, Trump? Ma no, non credo che abbia questo. Francamente problema. Sogno altro. Mi piacerebbe altro, incontrarlo, diciamo. In sauna, Trump, dai, di la verità. No, in sauna no. Ma perché ride? Non lo so, ride da solo, rido perché malato, mi immagino la scena, mi immagino malato, la scena malato, di Parenzo nella sauna con Trump. Ma perché si dovrebbero incontrare in sauna lui e Trump? Ma perché sicuramente fa parte dei suoi sogni erotici più reconditi. Essere inchiappettato come da, si chiama da Trump? Questo Mario, intellettuale delle, Mario delle 20.05 Mario, Mario da Bari, Bari, Mario da Bari. Bari. Mario sì, da Bari. Sì, tu bene. Che voterai al referendum, Mario? Ma lei ha avuto un'infanzia felice, io Mario? Io voto no al referendum, ecco, voti no. Vabbè, allora al referendum voto no e vorrei invitare Parenzo a fare altrettanto. Ma allora adesso facciamo una cosa, il comitato del no sì. sappia chi ha tra le sue fila, cioè chi vota no vota come Mario da Bari. Allora poi fate voi le vostre valutazioni, le vostre considerazioni, cioè, sappiate che il comitato del no, no un ha tra giro le sue sulla file. Moglie di Parenzo, ecco. Per tutti. Ma adesso, no, quella adesso non questa, questa non andiamo in queste cose se la ride, qua, a quella se la ride Alfredo da Lecce, dai, che se la ride Gradasso, se la ride l'ignorante, se la ride Alfredo, vai. Ehi, beh, Dimmi. Vabbè. Che gentaglia, vabbè. Comunque gentaglia, no, sai. Quelli che chiamano sono gentaglia, ma lo sappiamo. Non ho detto niente, sta gentaglia. No, ma si capisce già. Dai, dai, parla bene, però parla forte, bene, voglio sentire bene quello che hai da dire. Parla forte, voglio dire, mo vi sento tutto il palazzo. Allora, io avete parlato spesso dei calzini, delle mutande, tutte ste cagate qui, no? Sì. Ma io voglio dire una cosa. Quante volte vi lavate al giorno i denti? No, io almeno una. Sì, sì, e beh, perché sennò va... sei pulitissimo, com'è che c'hai quel dente giallo? Vabbè, perché ragazzi, c'hai quel dente giallo, Beppe? Ma che c'entra? Il dente giallo mica dipende dalla sporcizia, imbecille. Cioè, non è vero, è imbecille, ora comincia subito a offendere. Ma ho capito, ma che c'entra il dente giallo? Beh, Alfredo, bello, allora, che cosa... Io, per esempio, io mi lavo i denti una volta alla settimana. No, vabbè, ragazzi. No, ascoltami. Una volta a settimana ascolta. I denti ascolta. Non ci sono... No, perché, ma per carità, io non ti do dello zozzone come darebbe Parenzo, non te lo do dello zozzone. Beh, insomma. No, vabbè, ma fa parte. Ma saranno problemi tuoi con il tuo dentista, con chi ti bacia, no, con no, va bene, no, per carità. Poi io poi la domenica, il sabato mattina, no, mi sveglio presto e mi dedico quell'oretta alla pulizia dei denti. Ed è bello, devi vedere che bello quel filo interdentale quando tiri fuori pezzi di carne. No, vabbè. Tiri fuori, te lo giuro, è bellissimo, ma poi delle bistecche intere. Vabbè, amico mio, ma se ti va questa cosa, se ti piace questa roba qui, che ti lavi i denti no, una volta a settimana piace, e col filo interno... Il discorso dell'igiene va completato, e le mutande, i calzini... E cioè tu le mutande quando le cambi, le mutande? No, le mutande, io cambio i calzini e le mutande tutti i giorni. Però voglio dire, ecco, il discorso dei denti è per una soddisfazione di che cosa? Qual è la soddisfazione? Ma la ora soddisfazione io dico, è tirare fuori da mezzo i denti delle... Ma stai scherzando? Ma ora io dico, ma sulla radio della Confindustria, dai, Ma io dico, sulla radio della Confindustria, perché chiama sta gente qua? Vabbè, quello che c'è. E perché chiamano gente solo comune, in questa... gente comune. Ah, no, la gente comune. Zozzoni comuni. Zozzoni. Qui chiamano solo degli zozzoni. Fermi tutti, fermi tutti. Maleducati zozzoni. Allora ragazzi, nei giorni scorsi è apparso in televisione un ristoratore che si chiama Mencarelli, non mi ricordo bene la località, comunque dopo ve lo dico, Mencarelli, questo qua è uno che ha ospitato un anno e mezzo fa circa il matrimonio di uno importante del clan Casamonica, signor Mencarelli, amico ci mio. Mancava. Mencarelli, questo è un ristoratore, almeno quello che ha raccontato lui, i Casamonica vanno lì per un matrimonio e spendono tra tutto 180.000 euro. Mamma mia. Circa. Vabbè, 180 per un matrimonio, sai, vabbè, c'è chi li spende. Vabbè, non hanno mai pagato. Ecco, questo è il dettaglio, diciamo. Non hanno mai pagato i signori Casamo, secondo quello che racconta il ristoratore Mencarelli. Non ha avuto coraggio di chiedergli il conto poi. Beh, senti, senti. 188.000 euro, voglio dire, non è poca roba, cioè devono aver mangiato. Sì, hanno mangiato e bevuto bene, diciamo. Hanno mangiato aragosta, hanno bevuto cristal, hanno bevuto ostriche, hanno avuto qualsiasi cosa più buona che c'era in commercio, diciamo. Ostriche, cristal, in tutto 180.000 euro. Continuo il racconto di Mencarelli. A un certo punto, ma guarda Laura, che quello porta i lampadari, porta i candelabri. Dice, ma non ti preoccupare, questa è la nostra tradizione, portami un ricordino, poi ci penso io a saldare il tutto. Si portavano via anche i candelabri. Oh, la roba incredibile. Ma che, vanno a marchio o cosa? È vero che le hanno offerto una casa in cambio per saldare questo debito? Come no, come no? Hanno offerto una casa, ma purtroppo era una casa piena di ipoteche, che a un certo punto era più l'ipoteca che quello che dovevano pagare. Sono passati 2 anni e non è arrivato un euro ancora. Ma voi i soldi ai Casamonica li chiedereste? Cioè, a parte che uno che si porta via i candelabri, insomma, chiama i carabinieri, uno in teoria, no? Cioè, in teoria, se ti portano via i candelabri dal ristorante, la prima cosa che fai è chiamare i carabinieri. È vero che i signori Casamonica, insomma, hanno una piccola, una certa capacità di dimestichezza, di intimidirti, diciamo. Anche, ecco, di intimidirti. Ma tu, caro Parenzo, sì, secondo te il nome Casamonica è un nome sputtanato? Beh sì, beh, cioè un comune, insomma, no? Un comune che ha all'interno dei Casamonica, cosa farebbe? La prima cosa che fa? Beh, no, telefona. Dici, telefona agli iscritti al comune, a chi si chiama così Casamonica, e chiede se hanno intenzione di... Sì. Se si può cambiare nome. C'è sempre quel funzionario con quella voce fastidiosissima, peraltro, che chiama sempre. Si è messo all'opera anche qui con i Casamonica. Senti il risultato. Sì, buonasera, Casamonica? Casamonica come? Che sta solo Casamonica e basta, il nome non c'è. Casamonica. Scusa, se dice nome e cognome, se permette, dica. Se lei permette, io chiamo dal comune e il suo cognome rientra tra quelli che possono creare imbarazzi. Per una questione di decoro, il comune ha deciso di cambiarli. Cosa? Devo cambiare il mio cognome? Sì, signora, lei dovrebbe cambiare cognome. Magari basta togliere una vocale, che ne so, da Casamonica. Ma perché non se lo cambia lei, scusa, il cognome? Lei mi ma darà. Ma sta scherzando, lo dice sul serio. Non signora, io sto lavorando. Il suo cognome può generare imbarazzo. Cambia lei, buonasera. Senta. Cambia lei il cognome. Pronto? Buonasera, Casamonica? Ancora, un'altra volta! Ma lei mi ha sbattuto maleducatamente il telefono ma in faccia, scusi, non si ma, fa così. Ma lei sta scherzando che io devo cambiare cognome? Ma lei scherza! No, signore, io non scherzo. Il e vostro... se lo cambia lei il cognome, senta, scusa, il perché me lo devo cambiare perché io? Perché il vostro cognome porta discredito al comune, quindi ma andrebbe... Ma a me non mi interessa, io non faccio niente di male, non scrivono nessuno. Ma... A me non mi interessa. Ma interessa a noi, signore. Ma no, non me ne frega, cioè quello basta. Che interessa a te, a me non me ne frega, l'hai capito? No, e non la ho devi capito. Smettere, devi telefonare. Basta cambiare una vocale, Casamonica. Io non cambio niente, cambio te lo te, sbatto te lo in faccia. Scatta e crepa. Ma è funzionario. E tu dici che dobbiamo fermarci, i signori Casamonica potrebbero infastidirsi. Sai, abbiamo già abbastanza grane in giro per l'Italia con l'Andrangheta, la Camorra, abbiamo stuzzicato e titillato il Vaticano, abbiamo diverse Maometto, cause pendenti. Anche signor Maometto. Sì, anche in quel settore lì no, le cose non vanno benissimo. Eviterei di aprire altri fronti di guerra con personaggi che non fanno, diciamo così, della dialettica radiofonica il loro elemento portante. Sono specializzati nello spaccare le gambe, ad esempio, alle persone. Questo loro dicono questo lo dici tu. Io mi distacco da quello che dice Parenzo. Adesso ti prendo le distanze. Guarda, io ti assicuro che mi hanno detto: ho letto gli atti processuali. Loro dicono sempre: quelli che sono stati processati, dicono, noi gente. Non abbiamo ucciso mai nessuno, abbiamo spaccato delle gambe. Loro sono specializzati nella rapina, nel furto, nello spaccare le gambe, nelle minacce molto gravi, minacce perché spaccano le gambe alle persone. E loro dicono: noi non uccidiamo, però. Non uccidiamo, spacchiamo le gambe. Tu capisci, amico mio, che mettersi contro anche questi signori qui, così gratis et amore dei, mi pare un po', no? Comunque, per carità, andiamo. Et amore dei, ti piace? Bello, gratis et amore dei. Una volta mentre trombavo usavo la musica di sottofondo, adesso mentre scopo ascolto la Zanzara. Parenzo, sei il top. La Zanzara. Cosa vuoi? Che cosa vuoi? Che ti devi lavare. Cruciani si lava una volta a settimana. Perché mi devo lavare tutti i giorni io? È schifoso. La gente pulita si lava ogni giorno. La gente schifosa e zozza come lui non si lavano. Cruciani ha detto che sei uno schifoso. Perché ti lavi una volta a settimana? Ciao Cruciani. Senti, ma anche tu quando ti gratti le parti intime poi ti annusi le dita? Prossima settimana, a di martedì, voglio una puntata in casa di Cruciani con il Luminol a vedere i resti che ci sono sui suoi calzini e sulle sue mutande. Mamma mia, che schifo. Buonasera. Anch'io non uso i calzini e quando ero piccola il bagno era lontano e freddo e la mia mamma mi faceva fare pipì nel lavandino. Credo di averlo fatto una volta da adulta. Va benissimo, lavi, pulisci, chi se ne frega, Parenzo ha un bigottone. Ecco a voi la guida per il riutilizzo di una mutanda ancora per 7 giorni. Si toglie la mutanda, si spruzza il deodorante all'interno della stanza, preferibilmente al limone. Si fa fluttuare la mutanda agitandola all'interno della nube creata, si ribalta la mutanda e vai ancora per 7 giorni. Non capisco perché tra un traffico e l'altro c'è di mezzo la Zanzara. Non si potrebbe fare tutto traffico. Scegli Pantera col TH. Scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presento la Zanzara. Buonasera, sono la signora Ivana. Senta, potrebbe dire a quella signora che mette il veleno dei topi a casa sua e logicamente passano i gatti e dice... E io proverei una cosa invece, stasera ai nipotini suoi gli faccia un bel brodo con il veleno dei topi. Ai nipotini però, no ai gatti. Grazie. Giuseppe da Rovigo, vai Giuseppe, vai, vai. Eccomi qua, allora io a Richard Becco non gli darei una beata sega. Cioè, tu a, cerchiamo di riassumere bene. Dunque, tu a Richard Benson non daresti non una beata sega. Niente, parla più forte. Neanche sì. Un centesimo, neanche un centesimo. Perché uno che ha avuto la fortuna di fare il chitarrista, di avere un discreto successo, di avere preso dei soldi sì. E mangiarsi di tutti, perché questo sarà andato, avrà sperperato perché andava in giro a comprare, perché andava in giro a fare il bullo, perché andava si comprava, come ha detto sua moglie, comprava vestiti di firma, eccetera, e vede il mucchio che cala e si accorge che rimane senza soldi quando Vabbè, ragazzi, ma se uno rimane, si è speso tutti i soldi, non so come, che bisogna fare? Quello chiede aiuto, non gli, ma non glieli dare i soldi, non gli rompere i coglioni, non glieli dare. Aspetta, aspetta, Giuseppe, aspetta un attimo. C'è una cosa da dire. Allora, innanzitutto i cardiopatici gli si passano la anche ma non lo so, adesso il Servizio Sanitario Nazionale, non lo so. Tutte, gli passano tutte le medicine gratis, io sono purtroppo... ma non è cosa, ma non è non è solo cardiopatica, hai visto la lista di medicine che c'ha? Non mi sembravano appunto, cose tra l'altro particolarmente costose. Ha maggior ragione, Giuseppe, ha maggior ragione. A te ti rompe i coglioni che uno che ha avuto successo adesso faccia. Ma che cazzo succede? Allora, se avesse avuto successo, un minimo di successo avrebbe i suoi soldini. E invece, poi tra l'altro, poverino, non chiede mica. Non so, no, 3.000 al mese, no, 3.000 al mese. La carità di 3.000 euro al mese, sto coglione qua. E tre pacchetti di sigarette se fuma al giorno. Tre pacchetti di sigarette al giorno. E in più si incassa se tu gli domandi quante sigarette fuma e quanti soldi hai in banca. Si incassa, hai capito? Perché tu ti stai facendo i cazzi suoi. Non so se mi spiego. Beh, che è chiaro che mi faccio i cazzi suoi, ma è normale perché è lui che chiede i soldi, è lui che chiede i quattrini. Appunto. Vabbè, ciao amico mio, ciao. No, aspetta, ti volevo dire una cosa. Che vuoi? No, dicevo, poi sono d'accordo con Mario, quello delle Puglie, su Parenzo, poverino Parenzo, sì. Poverino Parenzo. E che ha fatto? È omosessuale? Ma come no, secondo te? Ma dai, cioè, ma è impossibile avere così poco rispetto per la gente come a lui. Io capisco che, cioè, tu al limite risulti simpatico nella tua... Ma perché non battaglia come un leone, combatte come un leone? Ma rispetto ma lui, per la gente che non lui, capisce eccolo niente. Là, fuori niente. Che sono un pazzo, che ho bisogno della puntura, che ho no, che ho saltato, ma non è pazzo Parenzo. Lei, ma lei ha altri problemi evidentemente, perché capito? Sono tutti i problemi che dice, io a me non me ne frega un cazzo. Comunque come io si dice giustamente in Veneto, coro vigo, nome intrigo. Come lei dice giusto, come mi suggeri? Lei è poco lucido. Guardi che in parte a Cruciani. Come si dice in Veneto, coro vigo, nome intrigo. Coro vigo, nome intrigo. Esatto, lei è Veneto, dovrebbe saperlo. Cioè, ciao, benetissimo. Ciao. Sì. Allora ragazzi, siamo in collegamento con una signora che si chiama Alessandra Di Lenge e fa parte della gruppo Le Iene Vegane, detta anche The Warrior, animalista vegana a tutto campo. Buonasera. Come andiamo? Bene. Allora, a chi andate a rompere i coglioni negli ultimi giorni? Ai cacciatori, qualche pescatore? Noi ci siamo andati qualche settimana fa. È vero che ti minacciano, Alessandro, sì, i cacciatori? Sì, mi minacciano. Che ti dicono? Ogni tipo di insulto, ogni minaccia di morte, sì. Qualsiasi cosa mi dicono. Beh, anche tu li vorresti vedere. Che fai sesso coi cavalli. Che fai sesso coi cavalli, ti dicono. Assolutamente. Ma che ne sanno loro, scusa? Cioè, no, non sarà vero, naturalmente. Comunque mi dicono, a prescindere da tutto, mi minacciano di morire, sparassero a voi, vi avessero lasciati per terra e cose del genere. Vabbè, anche voi non ci andate leggeri, signori cacciatori, eh? No, cioè, allora, se uno muore, personalmente non auguro di morire a nessuno. No, d'accordo, però impedire che sparino a degli animali. Però scusi, ma se ne hanno diritto perché sono in un posto perché dove si può cacciare, dovete andare a rompere i coglioni ai cacciatori. Ma se ritorniamo sul discorso della legge, ritorniamo al fatto che ci sono state un sacco di leggi infauste anche per gli uomini. Era ammessa la schiavitù è un'altra cosa. È una cosa Alessandra, un po' diversa, scusami un attimo. No. Allora, se durante una battuta di caccia muore un cacciatore, tu che cosa fai? Qual è la tua reazione? Se la sono cercata? Allora, dimmi la verità. Io ti dico godi. Io avevo un mio zio che era cacciatore e sinceramente non gli facevo grandi auguri da quando ero bambina. Se muore una persona che ammassa degli innocenti, se l'è cercata, meno che muoiono. Certo che se l'è cercata. Ci sono innocenti in meno, se un cacciatore vogliamo parlare delle vittime degli incidenti di caccia. 2015-2016, 24 morti, 84 feriti. Questo significa che se i vostri figli vanno in giro nei boschi la mattina, magari qualcuno sbaglia e gli spara. Cioè tu stai dicendo, se un cacciatore muore durante una battuta di caccia, l'unica cosa da fare è essere contenti. Se l'è cercata, se non andava a cacciare, non succedeva niente. C'è da essere contenti, un assassino in meno in circolazione. Ragazzi. Ma non è possibile, hai sentito i numeri che ho dato? Dato i numeri, esattamente. No, abbiamo sentito perfettamente 11, i numeri che lei ha dato. 11 minorenni e 23 feriti dal 2007 al 2015, ne parliamo, allora, la gente non può andare in bicicletta perché gli sparo. Ma non dire, ma dove? Non diciamo, no, ma no, dove è successo? Ma ogni tanto se uno ci va in una riserva di caccia in bicicletta, è chiaro che a me non mi verrebbe mai di fare una gitarella in una riserva di caccia. Ma vanno a cacciare, vanno, ma dopodiché io non è che ho grande simpatia, non è che non vado a caccia, anche se non vado, non sono mai andato a caccia, anche se ma una non volta... vanno a cacciare dappertutto, non è vero, Alessandra, ma dai. Io ti dico di sì, perché ci sono degli incidenti che accadono, è come... ma è normale, come gli incidenti per strada, cioè la caccia, ma no, uno non spara. È normale, perché questi hanno in mano un fucile. Ma no, non ma no, beh, ma che quello strano. Per forza ce l'hanno in mano. È macchina, ha un incidente, non è andato lì per senti, il tutto. Senti, ma anche tu come la signora Martani sei ecosessuale? Perché adesso cosa vuol dire ecosessuale? Che ami gli animali, che no, gli animali, scusa, le piante, che fai l'amore con la... con... Allora, se per fare l'amore con la natura significa calpestare le erbe ed avere piacere nello sdraiarsi sull'erba, che significa questo, sì. Abbracci gli alberi anche tu? Anche? Abbracci. Non hai mai provato, vabbè, a abbracciare quello... un albero? Beh no, francamente no, abbracciare, beh, un albero, quello si può fare, un albero. Cioè tu provi godimento ad abbracciare un non albero? Non è che provo godimento, è che si sente una sensazione bella, perché l'albero è vivo. L'albero, l'albero sì, è vivo. Vabbè, quello si può abbracciare. Anche tu ti dichiari questo, ecosessuale. Io sto dicendo, io ho detto cos'è secondo me amare la natura. Ma c'è anche un rapporto sessuale con la natura? C'è anche una... ci può essere un rapporto sessuale con la natura? I rapporti sessuali sono specie specifici. Sono specifici. Per esempio, un vegano, no, Parenzo? Secondo sì, te, che vuole una donna vegana, utilizza, secondo te, dei vibratori o utilizza degli oggetti, dei vegetables, quelli che in inglese sono detti vegetables? È una questione che non mi sono mai posto, questa io, così. È un discorso veramente degradante, questo. Sì, no, ha ragione. Ma no, perché è degradante? Scusa. La signora su questo ha ragione. Magari i vibratori sono fatti con materiale che viene... del genere, cetrioli, vogliamo andare lì a parare? No, perché... No, ha ragione la signora su questo. Ho capito, però uno deve trovare una coerenza anche in queste cose qua, no? Deve trovare una coerenza. Allora, io non mangio gli animali, non uso prodotti di origine animale. E che ne sai che i vibratori non vengono da cose di origine animale? Che ne ma sai? Ma guarda che ci sono qualsiasi tipo di oggetto non testato su animali. Ma adesso anche lei, anche sessuale, che risponde? Ma che risponde anche lei, signora? Scusi, Ho capito, ma bisogna rispondere. No, gli rispondo perché, cioè, voglio dire. Comunque, ma il mondo vegano, il dico che c'è ogni tipo di gadget non testato su animali. Anche quelli sessuali, dici tu? Assolutamente. Anche... cioè, capito? Ci sono i vibratori per vegani. Capito? Non mi pare una notizia così clamorosa. Però voglio capire una cosa, prima della pubblicità. I vegani, il mondo vegano, vota sì o no al referendum? Questo è curioso. Così interessante. È interessante. Il mondo vegano, secondo te, la sensazione che hai essendo una vegana militante? Assolutamente no. Ah, votano, ecco, questa è la notizia. Il mondo vegano vota però, no. Io sto parlando per me, ascolta. Vabbè, queste sono quello cose che delicate, sai, quello che sai, quindi, quello che sai dal mondo vegano, quello che percepisci, diciamo, quello che percepisci. Questo fermo, percepisco e io la penso così. Ferma un attimo. Nella Padova che vorrei governano gli ebrei. Forza Parenzo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Gamma Suzuki 4x4 All Grip, a partire da 13.900 euro. Suzuki. La Zanzara. Io ascolto sempre La Zanzara con mia moglie. Mia moglie ha sempre detto che Cruciani era una testa di cazzo. Ieri sono uscito da lavorare un'ora prima e l'ho beccata che si masturbava mentre ascoltava la sua voce. Queste sono notizie che, come dire, rincuorano da un certo punto di vista, caro Parenzo, rincuorano. Per esempio, c'è una notizia che riguarda la Lega che è abbastanza incredibile. Viene dall'Emilia Romagna. Salvini addirittura ha bocciato una canzoncina di Natale. Cioè, senti, allora, praticamente c'è una canzoncina di Natale è stata scelta in una scuola media di Sorbolo, provincia di Parma. Sorbolo. Secondo il Carroccio è propaganda politica politica. Questo perché senti, è intervenuto pure Salvini dicendo che non farebbe mai cantare a suo figlio una canzoncina di Natale di questo tipo. Lo sai perché? Perché in un passaggio di questa canzoncina di Natale si parla di permessi di soggiorno, cioè Babbo Natale porta dei permessi di soggiorno. Babbo Natale porta in dono un sacco pieno di permessi di soggiorno. Comunque siamo alla follia, dai. E praticamente è intervenuta folle. La Lega. Allora, ragazzi, adesso io dico una cosa: è sbagliato che venga proposta una canzoncina militante. Se è una canzoncina militante, ovviamente. Ma che vuol dire? Però, militante? Ma che cazzo vi frega? Ma che vuol dire militante? Magari è una canzoncina militante a favore dell'immigrazione. Ma figuriamoci, una e cosa fa una canzoncina a favore dell'immigrazione? Quali danni provoca nei giovani fanciulli? Comunque, una canzoncina Salvini ha detto: impedirei a mio figlio la canzone di Natale delirante. Matteo Salvini critica duramente la canzoncina adottata in una scuola media del Parmense, Natale di cioccolata. Se mio figlio fosse costretto a cantare una canzoncina così, la recita non la fa. L'autore si è stupito, naturalmente. Si è detto sorpreso. Si è detto sconcertato. Vabbè, chi se ne fotte. Allora, siamo con la nostra amica super animalista Alessandra Di Lenge, detta The Warrior. C'è un signore, Pino d'Arezzo, che dice che ti ha mandato. Sentiamolo un po', Pino d'Arezzo. Vai, Pino. Pino, dimmi. Pino. Pronto, mi senti? Sì, che fai tu, il cacciatore? Che fai? Eh sì, vado a caccia al cinghiale in Toscana con la mia bella squadra. Ottimo, quanti ne ammazzi i cinghiali? Bellissima la squadra. Senti, domenica se ne fatti fuori 32, ti ho mandato anche una foto. Ma hai mandato una foto di 32 cinghiali? Non l'ho vista, scusami. E se li vai a cercare sul numero c'era il pick up pieno di cinghiali. Quanti? Tu hai ammazzato 32 cinghiali solo domenica? No, non io, la squadra. Ammazzo di 3. Tu ne ammazzi. E provi, quanto godimento provi ad ammazzare un cinghiale? Che no, è il gusto della caccia, è il gusto della preda. Beh, uno è un predatore, cioè l'uomo è un predatore. Sì, un predatore così da sempre. Ma dai. Vabbè, allora non ho capito. Ma hai sentita l'amica? Rispetto, ci voglio tanto bene, non so come loro, che auguro gli incidenti, eccetera. Ma non sente questo un viaggetto, che sto parlando? Fate un viaggetto. È un cacciatore di Arezzo che si chiama Pino. Un cacciatore... Sì, ho capito. È un malato mentale, perché si diverte a fare una roba di genere. Come 3500 cacciatori che sono in Toscana. Vabbè, evidentemente siete tutti malati. Guarda, fai una cosa, io non mi ricordo come ti chiami. Fatti un viaggetto con National Geographic. No, io non me lo faccio, io volentieri. Vengo, guarda, se mi paghi il biglietto io vengo tranquillamente. Ma assieme, certo, alla tua squadra di caccia. Mi porto la mia squadra di persone che sono lì per difendere la vita dei cinghiali. E veramente... Io non riesco a capire cosa abbiate nel cervello e nel cuore per alzarvi la mattina e disfare la vita di degli innocenti che non vi hanno fatto nulla e che sono i figli di qualcun altro. Adesso mi direte figli, che sono animali, sono cinghiali, dai. Sì, sono i figli di qualcun altro, da dove escono? Vabbè, sono cinghiali, dalla pancia di una mamma, esattamente come i bambini escono dalla nostra, quindi tecnicamente, anche se vi dà fastidio sentirlo non dire, sono come sono mia figlia, non sono tu quando avrai un figlio, se avrai mai un figlio, non c'hai un figlio, credo, no? Non credo che lo potrai paragonare ad un cinghiale. Perché? No, perché? Ma perché? Dai, su, e dai. No, ma spiegami perché. Ma perché sono due cose diverse, dai. Ma ok, sono diverse. Ma come lo faresti crescere un figlio? Vegano? Lo faresti crescere vegano, poi? Assolutamente, senza vaccinazioni. Senza vaccinazioni. Insieme a tutti gli animali delle oasi, facendogli riconoscere. Cioè lo faresti crescere in mezzo alle bestie, in mezzo agli animali. Assolutamente, perché magari in mezzo ai maiali, che ne so. No, ma va bene, io volevo rispondere a questo signore qua della squadra di caccia. Ma lo battezzeresti? Lo battezzeresti? No. No. Sbattezzata a scuola ce lo porteresti? Ma a scuola cercherai qualcosa di autonomo, perché io mi ricordo quando manca da bambina a scuola. Allora, facciamo una cosa, allora, lezione mi fai parlare di catechismo. Quando perché allora amare. Vabbè, basta non farlo il catechismo oggi, si può anche non fare. Vabbè, io l'ho fatto. E mi è stata detta quella cosa allucinante che dicono per metterti quell'idea lì nella testa, che Dio ha creato gli animali per essere a nostro uso. Prima cosa dimostriamo che Dio c'è. Secondariamente tutte queste cose le hanno dette gli uomini. Però scusa, tu dunque non lo manderesti manco a scuola tuo figlio? Ma io cercherei qualcosa di alternativo. Cioè non, scusi, a scuola, ma... non a scuola, allora. Rispetto a una scuola del genere. Ma allora anche la polizia a cavallo, allora, non aspetta, si può usare. Nell'ordine. Non si può neanche andare a cavallo, scusa, ecco, la polizia a cavallo. No, la polizia. Assolutamente no. La polizia a cavallo. Ma io non posso andare a cavallo, non ho capito. Mia figlia fa equitazione, ad esempio. Se mi fate parlare. Il cavallo è fatto per correre, è fatto per essere montato il cavallo, è fatto non per è quello. Nato per essere montato, ma è nato sì per perché quello, viene tra... che, è il patto cavalli, tra l'uomo e il cavallo, è quello la lì. La lingua, gli devono ricucire la lingua per i danni che gli produce il morso, gli spaccano i molari. Vabbè. Andatelo a chiedere, scusami, io conosco scusami. Un fondatore di un'ora. Quindi non si Alessandra. Può andare più a cavallo. Alessandra, andiamo nell'ordine, andiamo con ordine. Allora, dunque, uno, tu, tuo figlio naturalmente cresce con l'alimentazione vegana. Sbattezzato. si è sbattezzato. Mi pare il minore dei senza problemi. Vaccini, senza vaccini, allora, in mezzo agli animali, in mezzo agli animali e senza scuola, amica sì, mia. Ma mi, se mi fa ma come senza vaccini, senza scuola? Ma non c'è da argomentare niente, tesoro, signora, come si chiama? Non c'è da argomentare niente. Ma perché, signora mia, se lei dice, allora, se lei dice che non ci deve essere nella scuola dei vaccini, il vaccino della polio che è tanto citato comunità scientifica. Scusa, ma è vero, ma mi hanno raccontato, mi hanno vabbè, ma sei contro i vaccini? Adesso non possiamo fare la puntata sui vaccini, va bene? Vabbè, sei contro... Scusa, vedi che allora non mi portano l'autismo? Portano l'autismo? Portano all'autismo i vaccini? Allora, io sto parlando del vaccino del polio. Ma adesso non possiamo stare al vaccino per il polio. Dai, Alessà, dai, su. Ci sono stati dei casi in cui è stato richiesto il risarcimento dei vaccini per quello che riguarda l'autismo. Cacciatore! Cacciatore! Cacciatore! Persone che muoiono a causa di reazioni avverse a farmaci. Non si ferma più. Spari tu? Spari tu o sparo io? No, per carità di Dio. Cosa state dicendo? Manco per scherzo queste cose. No, scherzo, il, dai, scherzo. Il cinghiale è buono, però, il capriolo è buono. Però dice che, scusami. Ma senti, se riduciamo tutto al buono, al cattivo, allora a questo punto uno vede una donna per strada che gli piace e la violenta, no? Ma non è ancora così vittime delle pulsioni fisiche di ogni tipo e non ci riusciamo a contenere di fronte al gusto. Non ci riusciamo a contenere. Ma insomma, questo qua, questo Pino, che cos'è per te? Un mostro? Che cos'è? Un mostro per te? Questo Pino, che cos'è per te? Un mostro? Un assassino? Un assassino. Pino, sei un assassino, capito? Sei un assassino. Ma non c'è da ridere. Ma sapete che la maggioranza dei cacciatori che incontriamo ci dicono che i figli si spocciano e sono contrari al fatto che vanno alla caccia. Imparate dai bambini, che non ammazzerebbero mai un animale. Imparate dai vostri figli. Senti, portateli ma, nei ma le mucche, il latte dalle il latte dalle mucche. Vabbè, lo sappiamo. Il latte dalle mucche si può prendere o no? Il latte dalle mucche si può strizzare? Sei un vitello tu? Ma non ho capito. Il latte dalle mucche si può prendere o no? Se tu sei un vitello. Ma io infatti lo prendono dalle mucche. Da chi lo devo prendere io il latte? Scusa, non ho capito. Ma il latte uno lo dovrebbe prendere da sua madre fino allo svezzamento. E dopo? Il latte e dopo? È un liquido e dopo basta. E dopo basta. Il tu per esempio da dove lo bevi il latte? Non ho capito. Lo io bevi? Guarda, dal momento che il dottor Calabrese ha detto per televisione che le mucche il latte lo fanno lo stesso. Sì. A questo punto io, essendo un mammifero come la mucca, che significa portatore di mammella, la mattina dovrei fare spesso il latte anch'io e quindi poterlo bere da me stessa. Cioè, non mi dire che strizzi le tue ghiandole per produrre e latte. Non esce niente. Perché ci provi? Evidentemente, ma sai, nel dubbio uno ci può anche provare. Però io invito tutte le persone che bevono latte la vedo, e che credono vedo che molto la negativo, mucca, il latte, manco il latte possiamo bere dalla mucca. Manco il sai, latte. Cosa, sai come si fa il latte? Sai cosa succede? Dopo tre giorni che nasce il vitello, lo manda via, viene tenuto in un box dove non si può muovere, è anemico e senza muscoli. Sì, va bene, d'accordo. Perché non beve il latte ma di sua madre, non possiamo... che per quello trovate la carne ma perché bianca, non possiamo bere il latte? Non possiamo nemmeno bere il latte, amica mia. Il cappuccino, non lo bevo. Il cappuccino? Il cappuccino di soia. Se vai in qualsiasi ma bar, perché non voglio posso prendere il cappuccino normale con latte? Perché sai che il latte fa ancora peggio della carne? È una delle cose più acidificanti che ci siano. Ma sai che siamo gli unici mammiferi che vanno oltre lo svezzamento a bere il latte di qualcun altro? Non lo sai tutto questo? Ma gli insetti non lo sai perché so. Dura. Va bene, ciao Alessandra, ciao. Pino, che mi dici, Pino, amico mio? Che ti dico che sei invasati. Io ho vissuto in Africa una spedizione parecchi anni fa. Quante che hai ammazzato in Africa tu? No, niente. Io ero tre giorni con i boscimani, popolo raccoglitore, che fa quello che dicono loro. Cioè, ho conosciuto uno dei 35 anni che ne dimostrava 70. Perché è lì che dovrebbero andare a fare i vegani, capito? Non nei salotti a spendere i soldi ai ristoranti vegani. Nei salotti, Mirko, bene. Provincia di Firenze. Ciao, Pino. Mirko, provincia di Firenze, vai. Mirko, dimmi. Pronto? Dimmi. Ma mi parlai, sono incazzato come una iena stasera per colpa vostra. Che è successo? Sono solitale a Parenzo perché l'unico, secondo me, almeno stasera si è salvato da questo grigliore. Sono in macchina con mia moglie a fare un viaggio e ho detto finalmente stasera ti faccio sentire la zanzara. Cioè, quello si fa, il tema era quello non si lava i denti da una settimana, quello con le mutande, quando se lo ricorda. Ora l'ultima, che il latte non si può bere dalle mucche, ma uno... Cioè, ragazzi, Giuseppe, veramente. Che cosa? Dimmi, qual è il problema? No, dai, alziamo un po' questo cazzo di livello. Di ma, Ma cosa hai detto? Non ho capito, scusa, mi sono distratto un attimo perché stavi dicendo una minchiata sicuramente, dunque mi sono distratto. Sì, immagino, mia moglie ho detto, finalmente stasera prendiamo la zanzara, ti metto in a casa, no? E allora? Finalmente, prima volta gli ho sentire, i temi di stasera erano, quello non si lava i denti, quello non si lava le mutande. Tema di grande, successo, se non, tema di grande successo, a parte che abbiamo parlato di altre 4.000 cose, non ti piace? Non ti piace? Cambi, invece sei rimasto lì, allora non rompere i coglioni. È rimasto. Un po', va bene, Susanna Siracusa, non si sente, vai Susanna. Mi sentite? Sì, ti sento Susanna, dimmi. Ok, benissimo. Ehi, dimmi. Dunque, dimmi tesoro, dunque. Dimmi. Sì, sono il tuo tesoro, sì. No, volevo dire ciao. No, sai perché ho l'auricolare che non sono abituata. No, io sento benissimo, vai tranquilla. Va bene, no, lascio, mi senti ancora? Sì, ok. Dunque, aspetta, senti. Dimmi, Susanna. Dunque, Luciani. Sì, dimmi tesoro, dimmi. Che c'è? E Parento, siete veramente dei gentiluomini. Siamo dei gentiluomini. Perché siamo dei gentiluomini, amico? Non mi fare chiamare l'ambulanza a quest'ora, che non sono tutte, sono tutte occupate. C'è la voce disturbata. La vostra scelta di volgarità è una scelta. Ma non c'è nessuna volgarità, nessuna, zero. Ma non c'è niente. Prima o poi farò una lezione su questa, una lectio magistralis su questa roba qui. Una lezione magistrale su cosa è volgare, cosa non è volgare, cosa è respingente, cosa è il turpiloquio, eccetera, eccetera. Ci sei ancora, Susannina? Tesoro. Ci sono. La vostra volgarità io la vedo come un'espressione di aristocrazia, in verità. Di aristocrazia, perché? Buona, ma sì. Spiegami un attimo, ti fa anche un po', cioè ti appassiona questa cosa o no? No, mi dà molto rispetto il fatto che voi avete il coraggio di fare delle cose parzialmente oscene alla radio, sì. Parzialmente oscene è buono, Parzialmente oscena a quello che le persone capiscono, dicono cosa fanno queste, capisci? Non prendermi in giro, veramente. Perché hai chiamato Susanna? Perché ti senti sola? Perché hai chiamato? Ho parlato perché ci sono appunto questioni che... Hai chiamato? Ci sarà un motivo, no? Un motivo, certo. Vero? Qual è il motivo, allora, vero? Motivo, volevo parlare della pipì nella doccia. Okay? La fai la pipì nella doccia tu? Che ti importa a te? No, la fai o no? La fai o no? Certo! Oh, è liberatoria? Stupendo, no, liberatoria. È normale. Questo volevo dire. Pisci anche nel lavandino? Dipende, se mi scappa veramente tanto non c'è un... Quante volte ti cambi le mutande? Dipende. Anche, anche ogni tre giorni, diciamo, può succedere? No, quello no. Poi ci sono anche questi piccoli salva slip ogni tanto, però se mi scappa veramente... I calzini? I calzini? No, i calzini è un'altra cosa. Ogni giorno, ogni due giorni puoi tenerli anche due o tre giorni? Io vado senza calzini, sinceramente. Sei spettacolare, ciao. Davide Giuseppe, ma chi è quel coglione che vi paga per fare le teste di cazzo? Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. Libera la voglia di fare.